spiaggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Vi dico subito una cosa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è l'ultima puntata di Non ci sono più le mezze stagioni, almeno per questa stagione, diciamo, a proposito di stagioni, quindi mi raccomando, partecipate numerosi, come si dice anche quando si pubblicizza in giro, no, con la macchina, il megafono, il circo che sta per arrivare, cominciate a chiamare se volete da subito per commentare le notizie di questa settimana. In realtà vi devo dire anche un'altra cosa, che questa puntata, essendo l'ultima, sarà molto speciale. È tutta dedicata alla nascita del Royal Baby. Aspettate, non girate, era uno scherzo naturalmente, perché qualcuno anche sulla pagina Facebook ha detto: mi raccomando, vediamo se riusciamo a sentire almeno da te delle notizie diverse dai Royal Baby. Effettivamente anche a me mi esce dagli occhi, dalle orecchie, da tutto. Poi anche questa definizione sempre british all'inglese, Royal Baby, il bebè reale, il piccolo principe, anzi piccolo principe, l'assonanza è un film troppo elevata, insomma, è nato, sono contenti i genitori, sono contenti gli inglesi, anche a livello internazionale, basta, insomma, la cosa è andata tutta bene, siamo contenti. Invece noi parleremo, come sempre, soprattutto in quest'ultima puntata, almeno di stagione, delle notizie della settimana, pienissima anche questa, quindi abbiamo come sempre l'imbarazzo della scelta. Il numero per voi disponibile tutta l'ora è 800 24 00 24, numero verde, quindi non pagate un cent, e anche numero ecologico, perché come sempre vi dico, evitate di disperdere energie, tempo, opinioni, pensieri eccetera nell'ambiente, e convogliate invece a Non ci sono più le mezze stagioni, più ecologico di così. 800 24 00 24, quindi vi riassumo giusto alcune delle tantissime cose successe anche in questi giorni. Naturalmente inevitabile ricordare l'evento drammatico più tremendo di questa settimana in Spagna, con la strage del treno deragliato, 78 morti, tantissimi feriti, e questo macchinista che si vantava di andare a velocità da ebbrezza straordinaria. Capite in che mani siamo? Già l'avevo chiesto l'altra volta all'opinionista estemporaneo della puntata di sabato scorso, in che mani siamo? Tra gli Schettino, tra quello della Jolly Nero a Genova che ha buttato giù la torre e si è sentito nel intercettazione che ha detto siamo andati contro la torre, forse saranno tutti morti, e quest'altro macchinista, quindi non solo in Italia ma in genere, chi ci guida, chi guida le persone a cui affidiamo le nostre vite, sia tecnicamente, proprio letteralmente guidando, ma anche politicamente, insomma, che mani sono. E poi, a proposito di tragedie internazionali, questa naturalmente è di stampo diverso, in Egitto continuano gli scontri tra militari e sostenitori di Morsi, dell'ex presidente deposto, 75 vittime, si sperava lì in Egitto che tutto fosse concluso, messo a posto con Morsi, che era stato anche appoggiato dagli americani, invece il disastro più assoluto. Poi, per quanto riguarda le faccende nostre, nostrane, il decreto del fare che è passato alla Camera col voto di fiducia, ora dovrà transitare attraverso il Senato. C'era stato l'ostruzionismo del 5 Stelle, che però sembra che si sia attenuato anche sul fatto che è stato rimandato il disegno di legge sulle riforme, si voterà a settembre, perché il Movimento 5 Stelle aveva questa paura che si facesse un blitz sulla Costituzione durante l'estate, no? Quando tutti sono un po' più assopiti, pensano ad altro, diciamo, fanno questo colpo di mano, pare che sia stato rimandato. Qualcosa è successo per le province, poi ne parleremo. Intanto continuano i strascichi della vicenda Shalabayeva Ablyazov, perché adesso il tribunale di Roma ha messo la polizia sotto accusa, dicendo che è stato nascosto al giudice di pace la vera identità della donna, la Shalabayeva, che insieme a suo bambino di 6 anni è stata rispedita in fretta e furia in Kazakistan. Poi tutte le fibrillazioni all'interno del PD, Epifani, che si parla di primarie, dice che ci saranno primarie e congresso entro novembre, ha cambiato diverse volte idea ieri sul fatto di farle aperte o chiuse queste benedette primarie. Che chiedevo infatti parere ieri sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori: secondo voi bisogna farle aperte o chiuse, cioè solo relative agli iscritti, dedicate agli iscritti queste primarie? Pensateci anche adesso, durante la puntata 800 24 00 24. Poi questo difficilissimo iter della legge contro l'omofobia, che sembra una cosa dall'altro mondo, cioè una questione sulla quale tutti potrebbero essere d'accordo, che non è tanto una questione che ha a che fare con l'etica, anche proprio col codice penale, quindi non si vedono tutti questi mal di pancia che ci sono. Poi Del Turco, ex governatore dell'Abruzzo, che è stato condannato a 9 anni e 6 mesi per la vicenda di Sanitopoli, il Papa in Brasile e, appunto, abbiamo detto all'inizio, il Royal Baby, però non ne parleremo a meno che qualcuno di voi ne voglia parlare. Sapete che avete sempre la massima libertà di esprimere le vostre opinioni sulla notizia della settimana che più vi sta a cuore. 800 24 00 24 e anche in quest'ultima puntata, come non dirci che cos'è che anche questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Non nel senso che ci ammazzano così, non ci sono più per quello le mezze stagioni, ecco. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Mi volevano fare fuori prima del tempo, invece io vi dico che non ci sono più le mezze stagioni, perché voi sapete che da che mondo è mondo, quando si è voluto dimostrare il proprio dissenso in modo, come si può dire, quasi alimentare vegetale verso qualcuno che stava facendo un comizio, uno show, uno spettacolo, si sono sempre lanciati i pomodori, no? Più o meno maturi, speriamo soprattutto maturi, che sono meno contundenti, nei casi più gravi le uova, ma mai era successo che fossero state lanciate delle banane, naturalmente sempre mostrando grandissimi livelli di civiltà. È successo ieri alla festa del PD di Roma contro la ministra dell'integrazione Kyenge, verso la quale, insomma, già un vicepresidente del Senato ha mostrato tutta la sua levatura morale anche in questo senso. Sono state lanciate le banane, questo al di là dell'inciviltà ci dice che anche la funzione delle banane e quello che rappresentano l'immaginario collettivo cambia, non sono soltanto dei frutti molto dolci e pratici, hanno sempre avuto questa accezione un po' equivoca di doppi sensi, un po' sessuali, erotici, invece adesso diventa un'espressione e di dissenso ma soprattutto di odio razziale. Le banane ci sono simpatiche, preferiremmo che avessero un altro significato. Comunque adesso, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dette queste cose, direi di andare a presentare immediatamente l'opinionista estemporaneo di oggi. Sergio Rizzo. Pronto? Sergio. Tu mi stavi dando buca, Sergio, perché io ho capito chiamandoti poco fa che tu eri col caravan con bambini, gattini, uccellini, cagnolini, l'arca di Noè, ed eri un po' titubante, come se non ricordassi l'impegno che ti eri preso con me. Ma tu stai andando verso le tue vacanze, immagino, Sergio. Beh, siccome non ci sono più le mezze stagioni... E quindi approfittiamo dei momenti di caldo effettivi. È piena, ecco. Non è una mezza stagione, come è noto. Partiamo, ma prima di partire, Sergio, io la chiappo e qua lo tengo per un'ora con voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché deve aiutarmi a commentare le notizie della settimana insieme a voi, naturalmente. Sergio non ha bisogno di presentazioni, ma ve lo presento lo stesso, inviato editorialista del Corriere della Sera, che ha scritto una serie infinita di saggi e soprattutto un best seller insieme a Gianantonio Stella, che voi sapete ha tracciato, ha segnato un'epoca, La Casta, che ha fatto inviperire milioni e milioni di italiani, probabilmente anche gli stessi politici. Secondo te, cioè, che qualcuno di qualche politico ti ha aspettato sotto casa qualche volta o non c'è stato questo rischio? No, per fortuna quello non è successo. Qualche telefonata sì, quella sì, qualche telefonata arrabbiata sì. Posso capire di che tenore? Pronto? Posso capire di che tenore, cioè, telefonata? Voglio dire, quello no. Devo dire che da questo punto di vista sono molto più educati di quello che ci si possa immaginare, no? Però certamente, c'è stato addirittura qualcuno che privatamente si è lamentato per non essere stato inserito nel libro. Niente proprio di meno, cioè per dire anch'io ho preso soldi, anch'io ho approfittato, anch'io ho privilegi. Vedi, non sei nel libro, gli dicevano, quindi non conti nulla. Questa cosa è una cosa veramente paradossale, questo ci dice anche a cosa si dà importanza, piuttosto che non esserci. Cioè, tu hai ricordato prima il caso delle banane, no? Che è un caso, secondo me, che fa capire a quale livello di bassezza è precipitato un pezzo di questo paese, però sulla storia delle banane mi fa piacere che hai ricordato anche la vicenda di Calderoli, che è stato, diciamo, l'apripista un po' di questa. Sì, abbiamo parlato tanto di queste cose. Io non capisco una cosa, no? Gli hanno chiesto tutti di dimettersi. Da tutte le parti. No, lui dice non abbastanza. Sì, non abbastanza, però potevano fare una cosa e nessuno l'ha fatta. Quando lui si sedeva sullo scranno più alto del Senato per presiedere una seduta, sì, avrebbero dovuto alzarsi e andarsene, no? Questa cosa qui non l'ha fatta nessuno, ma questa cosa qui sarebbe stato l'episodio che avrebbe, diciamo, probabilmente reso inevitabili le dimissioni dall'incarico di un vicepresidente del Senato che aveva addirittura insultato in modo così indecente, diciamo la verità, ignobile, no, una persona di colore, no, non dico un ministro, una persona di colore. Certo, fosse stato chiunque, ancora più che lì ci deve essere il rispetto delle istituzioni. Allora, io non capisco perché in Senato, quando lui si siede a fare il presidente della seduta, non si alzano e non se ne vanno, quantomeno quelli che gli hanno chiesto le dimissioni. Sergio, io ti do perfettamente ragione, ma mi pare che evidentemente ci sia, vista l'omogeneità del comportamento, anche evidentemente una certa armonia in Parlamento. E adesso vorrei proprio collegarmi, perché tu sai che, forse non lo sai, ma insomma, molti sanno che qui, oltre ad essere l'unica trasmissione al mondo ad avere un collegamento con un altro pianeta, abbiamo anche un collegamento privilegiato ogni tanto proprio col Parlamento, una linea diretta, un telefono. E adesso sentiamo proprio, dovrebbe esserci proprio questa atmosfera di armonia che proprio domina. No, vabbè, chiudiamo la linea, forse non è, forse un po', ecco, il caldo a volte, diciamo, fai bollire gli animi. Ma comunque io volevo chiederti, prima di dare poi la parola a ascoltatrici e ascoltatori all'800240024 e prima di andare con la viabilità tra pochi istanti, caro Sergio Rizzo, tu Sergio non sarei mica un fighetto? Che vuol dire un fighetto? Ah, quelli che sono stati immortalati sulla prima pagina di un giornale ieri? Perché l'ha detto Letta, ha detto nei giorni scorsi, ecco, un discorso al PD, assemblea del PD, ha detto basta fare i fighetti. Allora ho detto no, intanto io non sono iscritto a nessun partito. Però magari sei un fighetto anche tu, che ne so. No, perché lui si riferiva ai fighetti del suo partito, no? Cioè lui si riferiva ai fighetti. Secondo te c'era Renzi? Era Renzi fighetto? Salotti, no, poi no. Dicono, ecco, vedi, Alfano si dovrebbe dimettere, cioè quelli che, insomma, diciamo, li remano contro dentro, diciamo, Renzi, Civati, tutto il più, questi sono i fighetti. Senti, appunto, ma io penso però che io penso che meno male che ci sono quelli che dentro i partiti dissentono. Sì, meno male. Vedete, velocemente abbiamo aggiornato, di nuovo con voi Roberta Giordano, più o meno sino alle 15, e voi con le vostre telefonate all'800240024 e l'opinionista estemporaneo di oggi, per commentare insieme le notizie della settimana, che è Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Tra poco Paolo da Lecco, Maria Grazia dalla provincia di Viterbo, Luigi da Firenze, tutte le altre, gli altri. Ma a proposito appunto dello scandalo Shalabayeva, Sergio, stavamo dicendo, io credo Sergio, avendo letto attentamente una serie di cose, di ricostruzioni, di interviste, di documenti, io credo di aver capito chi sia il responsabile di tutta questa vicenda. Lo vuoi sapere? Sì. Il maggiordomo. Io credo che non sia più un luogo comune, no? Perché prima era sempre effettivamente nei gialli, nei intrighi, il maggiordomo, e non può esserlo anche oggi, no? Cos'è, una figura? Va bene che non c'è più il maggiordomo di una volta, no? Ci sono magari i colfi, i collaboratori. Secondo me può essere. Che dici tu? È credibile questa cosa? Ma dipende il maggiordomo di chi. Questa è una battuta. Dipende, che lascio, che lascio di spiegare a te questa cosa. Vai, dimmi. Ma il maggiordomo, di solito però, anche quando il maggiordomo fa un guaio grosso, no? Chi è responsabile è sempre chi ha scelto il maggiordomo, no? Sì. Quindi alla fine c'è sempre un responsabile oggettivo, no? Se io ho scelto un maggiordomo incapace, è chiaro che un po' la colpa è anche mia, no? Se poi neanche il maggiordomo mi dice quello che fa, non mi riferisce quello che fa, allora io non conto niente, no? Direi di sì, altrimenti. Vuol dire che se il maggiordomo è così, si sente così, potente, così forte da potermi anche non che ha rotto un'intera cristalleria, qui allora vuol dire che io non conto nulla, e allora bisogna che ne tragga le conseguenze, no? Allora, quindi, fuori di metafora, abbiamo il coraggio di fare nomi e cognomi, Sergio? No, dunque, in politica io penso che ci sono delle responsabilità oggettive che sono sempre in capo a chi sta in testa alla cosa, no? Io ricordo che si è dimesso un ministro del governo Letta perché era venuto fuori che non aveva pagato l'ICI. Idem. Sì. Ma francamente mi sembra una cosa molto meno grave di che è successo con anche il presidente kazako, sinceramente, no? E quindi io penso che in qualsiasi altro paese del mondo, io penso che il ministro dell'interno attuale non sarebbe più ministro dell'interno, credo. Stiamo parlando di Angelino. Non penso di sbagliarmi, penso in Germania un ministro della difesa, che era l'uomo più potente, uno dei nascenti all'interno del partito della CDU, della cancelliera. Ma aveva copiato un pezzo di tesi da studente, quindi si è dimesso perché è saltato fuori che aveva copiato una parte della tesi di dottorato. Sì, di dottorato neanche, sì. Il presidente della Repubblica tedesca, Wolf, il precedente presidente della Repubblica, si è dimesso perché è saltato fuori che aveva avuto un prestito di favore da un amico suo banchiere per comprarsi la casa, no? Tutte cose che mi sembrano, ma mi sembrano immensamente meno gravi di quello che è accaduto. Cioè, noi abbiamo avuto dei signori di un altro stato che hanno, diciamo, occupato fisicamente le ambasciate, il Ministero dell'Interno, è andato ordini a destra, condizionando, dando ordini alla nostra polizia. E questo, francamente, mi sembra, diciamo, di una certa gravità per un paese democratico, no? Se tu ti sbagli, ci sbagliamo in due, probabilmente, se tu ti sbagli. Ma cominciamo a sentire, sì, al numero verde 800 24 00 24. Stanno arrivando centinaia e centinaia di telefonate al telefono di Benedetta Acri, quindi diamo spazio a Paolo da Lecco. Paolo? Sì, ciao. Sì. Ascolta, io volevo fare un intervento sulle regioni, sulle province, sull'abolizione delle province. Sì. Ma sono d'accordo all'abolizione delle province, ma bisogna, secondo me, abolire le regioni. Perché io, cittadino, ho un rapporto col comune, poi come ho fatto, potrei mai avere un rapporto con la regione. Ce l'ho più con la provincia che con la regione. Quindi dobbiamo capire, perché se uno dice ho più rapporti con la provincia che il comune, aboliamo il comune. Sì. No, io ho un rapporto cittadino normale, in un paese piccolo, sì, ho un rapporto col comune e potrei avere un rapporto con la provincia se ho bisogno, ma con la regione per me sembra un rapporto impossibile. Quando si aboliscono queste entità delle province, ma la regione è un'entità più grossa che mangia più soldi, secondo me. Quindi tu ne fai quasi una questione di prossemica, di vicinanza, siccome il mio contatto è più diretto con un'amministrazione un po' più piccola, più vicina che la provincia, aboliamo le regioni, insomma, diventa complicato. Secondo me è più logico che abolire la provincia, che abolire la regione, che più è più una macchina mangia soldi. Paolo, allora io ti ringrazio perché hai lanciato, credo, un argomento che è molto caro a Sergio Rizzo, una parlato diverse volte anche questa settimana sul Corriere della Sera, e lo introduco così. Sai sottovalutare la provincia, fai sottovalutare la provincia, ma guai sottovalutare la provincia. Giusto, Sergio, è stato questo disegno di legge che, però è un disegno di legge, quindi va approvato, che svuota dei poteri. Io mi sono immaginata come un sacco che si affloscia, si leva il contenuto, si affloscia e poi per questioni naturali, diciamo, rimane lì spiaccicato e piano piano si dissolve. Cioè, questa storia delle province. Adesso vedi, per esempio, come la pensa diversamente la gente, le persone. Paolo diceva, ma io ho contatti più diretti con la provincia, perché non facciamo fuori la regione, no? Quindi, ma dunque, lui... A proposito di costi della politica, questo, di cui ti intendi, sì. Sì, ma dico, questo ascoltatore ha posto un problema molto serio, perché è vero che le regioni sono, diciamo, diventate da un ente che doveva semplicemente programmare, no, un contesto territoriale molto vasto, diciamo, sono diventate dei mostri, no, dei mostri mangiasoldi. Basta dire che negli ultimi 10 anni la spesa pubblica, diciamo, regionale è raddoppiata e quella statale, uno immagina, siccome abbiamo dato più competenze alle regioni, forse spenderemo di meno al centro. No, quella statale è rimasta più o meno uguale, anzi un po' aumentata, quella regionale invece è raddoppiata, no? E le regioni da enti di programmazione sono diventati enti di spesa. In più, con il fatto di avere, diciamo, una classe dirigente già modesta a livello centrale, quella, la classe dirigente, non ho capito, la classe dirigente già modesta, già di qualità, diciamo molto modesta, no? Adesso non c'è nessuno che possa contraddire questa cosa, noi siamo nella mediocrazia, attenzione. Cioè già a livello centrale è così modesta la classe dirigente, figuriamoci a livello locale. E abbiamo visto quello che è accaduto per esempio al Consiglio regionale del Lazio, no? Quello che è accaduto con Fiorito e tutti gli altri. Esatto, quindi quella, secondo me, quello è proprio l'episodio che ci chiarisce il livello della classe dirigente regionale, no? Perché questo? Perché a livello regionale, siccome i consiglieri regionali non contano nulla di fatto nella formazione del processo, diciamo, del potere all'interno della regione, dove conta soltanto il presidente, cioè il governatore e la giunta, hanno semplicemente la funzione di procacciatori di voti, quindi non si va tanto per il sottile, no? Sono tutti di bocca buona, insomma, i partiti, intendiamoci. Prendono quelli che possono portare più voti, no? E poi non importa se la qualità è quella che è, no? Quindi le regioni hanno subito un processo di degenerazione pazzesco, con degli sprechi pazzeschi che sono nettamente superiori a quelli delle province, ovviamente, no? E con, diciamo, anche una, se vogliamo, una responsabilità molto, molto profonda nella crisi dello Stato, perché conferendo a queste regioni un'autonomia così forte, come quella che gli è stata data anche in seguito del titolo quinto, la riforma del titolo quinto della Costituzione voluta dal centro-sinistra, ricordiamo, no, si sono creati delle sacche di, come se fossero 20 stati diversi, ognuno dei quali però è totalmente irresponsabile rispetto alla spesa pubblica. Questa è la follia pazzesca, no? E ne abbiamo avuto una conferma anche con la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che aboliva le province. Perché un'altra cosa, c'era una norma che fatta dal governo Berlusconi, in particolare voluta dal ministro Tremonti, ma con l'accordo anche col centro-sinistra nel 2011, che norma che prevedeva per i governatori delle regioni che avessero fatto dei disastri tipo sanitario, prevedeva l'incandidabilità per 10 anni e lo stesso per i direttori generali, i direttori delle ASL, eccetera, eccetera. Ebbene, la Corte Costituzionale, il giorno 16 luglio, con una sua sentenza, ha abolito questa norma. No? Quindi, perché questo? Perché sulla base dei principi costituzionali le regioni sono sostanzialmente intoccabili, voglio dire, no? Quindi abbiamo creato questi 20 mostri che mangiano soldi. Che sono intoccabili a questo punto. Soldi, dove, diciamo, la corretta gestione è lasciata semplicemente alla libera iniziativa dei singoli governatori. E questo, allora, c'è il governatore bravo e c'è il governatore che è molto, bravo. Molto meno bravo. Sergio, siccome abbiamo moltissime telefonate, io farei passare Maria Grazia dalla provincia di Viterbo, visto che magari col caldo uno poi si stanca prima. Maria Grazia. Sì, non è la provincia di Viterbo, sono nell'Alto Novarese ai confini con Verbania. Mi sembra tutt'altra regione, quindi evidentemente era sbagliata qui come era scritto. Niente, passiamo da un punto all'altro dell'Italia, siamo italiani, benissimo. Sì, esatto, per fortuna e per ora, chi lo sa. No, siamo io ottimisti. Ho seguito un pochino, anche per le mie simpatie politiche, la questione delle primarie del PD, cioè questo secondo me è una di quelle polemiche assurde e illogiche che noi stiamo montando ultimamente. Pare che abbiamo soltanto voglia di parlare e abbiamo smesso di aver voglia di fare, ci esauriamo con le parole e basta. Ma non ha senso aprire le primarie a tutti, è una questione interna del PD, partecipa chi appartiene appartiene al PD, mica al sindacato chiedono al primo che passa per la strada di andare a dire chi vuole che sia il prossimo segretario. Cioè, nel condominio siamo noi condomini che decidiamo, perché il PD deve dire facciamo in modo che anche gli altri, non è questione di democrazia, queste non sono elezioni generali. Questa è una questione interna del PD, pertanto basta, insomma tutto il resto è polemica inutile, cioè è anche un modo per cui alcuni si vogliono fare pubblicità, non è questione di essere fighetti o no, tra l'altro qualcuno di questi fighetti li conosco abbastanza, sì. Ma insomma. Maria Grazia, dimmi una cosa, se posso chiedertelo, di cosa ti occupi nella vita, se puoi dirlo? Sono, vorrei dire felicemente, no, perché non è felicemente, pensionata. Ho fatto la preside, ho fatto l'insegnante, mi sono stata all'estero, ho fatto tante cose, ho visto tante situazioni e devo dire che polemici come noi non c'è nessuno. Come noi intendi PD? Italiani. Ah, italiani. Eccoci di nuovo insieme, Roberto Giordano sempre con voi, il vostro numero a disposizione è un numero verde, quindi gratis ed ecologico, 800 24 00 24. Prima di sentire Nicola da Roma, Sara da Trento e tutti gli altri e le altre, dicevo, Sergio Rizzo, opinionista estemporaneo di oggi, che ne pensi di questa disputa infinita sulle primarie aperte a primarie chiuse, che manco Epifani, segretario del PD, ha ben chiaro in testa bene cosa fare, visto che ieri ha cambiato in poche ore l'idea, prima una cosa, poi l'altra. Hai sentito sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, per lo più erano tutti per quelle chiuse, perché dico, gli iscritti devono decidere, mica può venire il primo che passa. Hai sentito anche Maria Grazia al numero verde, che dici? Ma dunque, dal punto di vista così, se dovessimo pensare che i partiti sono delle associazioni private, dove, come una bocciofila o come una, non so, una, un club di tennisti, che ne so, club di golf, quello che è, allora è giusto, un circolo del tennis, no? Il presidente lo nomina gli iscritti, non è che mettono il cartello e i passanti vanno a votare, no? Ma i partiti sono una cosa diversa, no? Soprattutto nel momento in cui, diciamo, i partiti hanno una connotazione negativa, cioè nel momento in cui c'è bisogno invece di aprirsi alla società, allora questo chiaramente crea un problema, no? Anche perché poi uno va a vedere che cosa succede negli altri paesi, cioè i paesi dove si fanno le primarie, Stati Uniti in testa, Stati Uniti, cioè, e scopre che non, gli iscritti non sono gli iscritti che votano le primarie, lì c'è un meccanismo molto più complesso, no? Che sì, sono molto poi complesso. Quelli che esatto, no? Però diciamo anche gli americani, che sono molto, diciamo, da questo punto di vista molto come dire, molto attenti ai formalismi della politica, no? Beh, cioè, si rendono conto che non è che gli iscritti sono quelli che sono determinare, tanto più se aggiungo, se il segretario del partito è quello che deve poi guidare il partito o anche la coalizione, e invece no, corsa alla premiership, perché hai sentito, no? Che invece vogliono dividere i due ruoli. Secondo te è giusto dividere i due ruoli, cioè chi diventa segretario non sarà anche il candidato premier? Ma dunque, io ricordo un'intervista che feci io tanti anni fa, ormai 15, quando eri un ragazzo, insomma 17 anni fa, eri un ragazzino, sì, fa, a Massimo D'Alema, in cui era il 96, era novembre del 96, in cui Massimo D'Alema dice: ma io penso che in tutti i paesi dove c'è, diciamo, queste democrazie bipolari, diciamo, il premier lo deve fare, diciamo, il segretario del partito che vince le elezioni, sostanzialmente, no? Quindi di fatto lui già all'epoca disse che doveva essere una coincidenza tra il partito e il... Hanno cambiato idea. Ed è stato così anche negli altri... Infatti, stanno cambiando adesso. In Gran Bretagna, per esempio, chi è diventato per 10 anni premier? È diventato Tony Blair, che era il capo del partito laburista. Ma secondo te vogliono boicottare Renzi, David quindi? David Cameron è diventato premier in quanto capo del partito conservatore. Certo. Cioè, quindi c'è una identificazione di queste figure. Ora, questo qui è, mi sembra tanto un escamotage, no? Per dire, il partito lo tiene in mano la vecchia guardia, chiamiamolo così, però il premier lo facciamo fare a Renzi, che raccoglie, no? Consenso. Questa è la cosa. Adesso, io francamente la trovo un po', una cosa all'italiana, diciamo, no? Diciamo una cosa all'italiana, diciamo una cosa all'italiana. Molto più serio sarebbe forse fare delle primarie con un meccanismo che consenta la partecipazione non soltanto agli iscritti, perché in Italia, vedete, cioè il PD quanti iscritti ha? 500.000. Il PDL quanti ne ha di iscritti? 200.000, 300.000, non lo so, non ne ho idea, no? Però è chiaro che diciamo l'area del consenso e dei simpatizzanti è molto più ampia, più vasta, più trasversale, tu dici. Cioè non può essere considerato un partito alla stregua di una bocciofila. Bene, questo è chiaro, è chiarissimo, no? Il concetto, Sergio, siccome abbiamo un sacco di ascoltatori, questa è l'ultima puntata, passerei, prima che Roberto Scaltritti alla parte tecnica faccia il collegamento satellitare con Marte, sentirei Nicola da Roma. Sì, buongiorno. Buongiorno Nicola. No, io non sono d'accordo con le critiche al governo, al ministro e all'iter attraverso cui si è arrivati all'espulsione della moglie e della figlia dell'oppositore kazako. Sì. Mi sembra che sia stata una delle procedure più garantite, più monitorate, più controllate dalla magistratura che si possa pretendere. Sono stati rispettati tutte le prescrizioni previste dal nostro ordinamento prima di pervenire all'espulsione di queste due persone. Nicola, sei sicuro? Chi te l'ha detto questo? Mi sembra che ci siano stati ben tre magistrati che a titolo diverso e per ragioni diverse hanno controllato la regolarità della procedura, hanno dato il loro assenso, hanno rilasciato i loro nulla osta e per di più le due persone erano assistite da avvocati di primario livello, uno degli studi più importanti, più noti di Roma, che però non gli hanno fatto dire qual era la vera condizione. I loro scusa Nicola, sì. Come mai adesso il Tribunale di Roma dice che è stata nascosta al giudice di pace la vera identità della donna? Come mai i titoli dei giornali dicono? Io adesso questo particolare ovviamente non è un particolare da poco. La vera identità della donna, mi sembra che la donna sia stata identificata a verbale in udienza e quindi ora la vera identità della donna non può essere nascosta. D'altro canto, ripeto, la donna... la polizia è sotto accusa, non è una cosa da poco del Tribunale di Roma. Secondo, la donna in quel momento era garantita dalla presenza di un avvocato, cioè è l'avvocato che garantisce i diritti del proprio assistito e fa presente al giudice, deve fare presente. Pare che avesse chiesto di prendere tempo per chiarire una serie di cose, ma l'hanno messa sull'aereo e l'hanno fatta partire insieme alla bambina di 6 anni. L'udienza che si tiene davanti al giudice di pace è un'udienza proprio dedicata a verificare tutte le condizioni per poter dare il nulla osta, l'assenso al trasferimento. No, ho capito. Nicola, ascolta, è chiaro che non possiamo deciderlo noi due in questo momento, perché intanto vediamo il Tribunale di Roma come procederà rispetto a questa accusa. Nicola, dimmi solo di cosa ti occupi nella vita, se si può l'avvocato, dire. L'avvocato, io faccio l'avvocato. Ecco, non avevo dubbi. Molto bene. Diciamo, un minimo di mestichezza con queste procedure. Non mi voglio parlare. Quindi io posso dire che in questo caso veramente non si può paragonare questo tipo di procedura. Ho sentito parlare di extraordinary rendition o quant'altro, veramente di deportazione, insomma, illegittima. Per di più, il ministro, e questo mi pare che lo abbia confermato anche il suo capo di gabinetto, è stato informato soltanto che vi era un latitante pericoloso e mi pare che lui abbia impartito la direttiva. Conferma. Anche se si diceva con Sergio Rizzo che insomma uno deve essere informato fino in fondo delle cose, perché altrimenti vuol dire che lì qualcosa non funziona. Nicola, ti devo lasciare perché abbiamo questo collegamento con Marte che non possiamo perdere, sennò cade di nuovo il telefono satellitare. Da Marte. Scrutando come sempre, e per l'ultima volta, almeno per questa stagione, il pianeta italico da quassù da Marte, il mio fido telescopio mi dice che questa settimana, forse più di altre, è stata la settimana del trionfo, dell'equità e della giustizia. Gli esempi sull'italico territorio sono assai numerosi, anzi direi si sprecano, ma il mio cannocchiale spaziale ne ha messi a fuoco giusto alcuni, che sanciscono, dicevo, il trionfo di equità e di giustizia. Prendiamo per esempio i tetti. Nel senso dei tetti agli stipendi dei manager pubblici, per l'ennesima volta sono stati scoperchiati. Saltano dunque i tetti, ma mica per un uragano come succede negli Stati Uniti, no, saltano per l'eccezionale, funambolica capacità di usare la lingua italiana da parte dell'indigena classe politica. Nel famoso decreto del fare, infatti, viene in un primo tempo scritto, sentite, fate attenzione a cosa c'era scritto in un primo tempo, il tetti tetto di 300.000 euro ai compensi si applica anche alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, Poste, Ferrovie, RAI, eccetera. Ma nel passaggio dalla commissione all'aula, tracate, come in punta di piedi, zitto zitto, è comparso un non. Una parolina piccola piccola di tre lettere, però ti cambia il mondo. Ergo, dopo la comparsa di questa parolina non, la stessa frase si legge così: il tetto di 300.000 euro ai compensi non si applica anche alle società che svolgono servizi di interesse generale e anche di rilevanza economica. Insomma, straordinario, eh? Riconosciamolo. E così, ecco bella sistemata la faccenda senza batter ciglio. Ci sono gli esodati, ci sono i disoccupati, ci sono i precari, ci sono i depauperati pensionati, e vabbè, queste sono cose complicate, mica tutto si può risolvere semplicemente aggiungendo un non. Un'altra questione importante nel segno dell'equità e della giustizia si è potuta risolvere a sua volta in 448, quella delle pensioni d'oro. Il governo Monti aveva stabilito un prelievo sulle pensioni superiori ai 90.000 euro lordi annui di pensione, e con un contributo che ammontava al 5% per la parte eccedente dei 90.000 euro. Ebbene, dopo una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo questo contributo, l'INPS ha restituito prontamente il prelievo a tutti quanti i pensionati d'oro. Certe cose poi si sa vanno risolte in fretta, ma il trionfo di equità e giustizia non riguarda solo questioni di vil denaro, ecco, di danè, di palanche, perché altrimenti potremmo anche parlare della spassosissima questione dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che continua a uscire dalla porta e a rientrare dalla finestra. Ma dicevo, non solo i soldi hanno a che fare con equità e giustizia, no no. Prendete il branco, quello degli stupratori, che si divertono innocentemente in gruppo sulla loro vittima, in gruppo per sostenersi l'un l'altro, è chiaro, perché si sa, l'unione fa la forza e crea solidarietà. Ebbene, cosa ha stabilito la Corte Costituzionale? Che il carcere non è obbligatorio per gli stupratori di gruppo, se le esigenze di custodia cautelare possono essere soddisfatte con altre misure, insomma. E via, che avranno mai fatto questi poveracci, perché la loro libertà personale venga così duramente penalizzata con la gattabuia? E poi diciamolo, le carceri sono già così piene. Se è uno lo stupratore che violenta, magari ancora lo spazio in prigione si trova. Ma se è un gruppo, dove li metti tutti quanti? Va da sé dunque che è meglio per certe ragazzate organizzarsi in gruppo piuttosto che avventurarsi da soli. E infine, dopo i danè e dopo le congrue sentenze umane, la giustizia trionfa ancora una volta, per così dire, in una dimensione quasi esistenzial causal metafisica, nella vicenda di Erich Priebke, ex ufficiale nazista condannato all'ergastolo per aver partecipato all'eccidio delle fosse ardeatine, dove vennero fucilate 335 persone. E Priebke, che a dispetto di tutti e delle centinaia di vite che ha orribilmente spezzato e quelle dei loro familiari superstiti, compie, passeggiando quotidianamente a Roma con la sua badante, con la sua guardia del corpo, compie 100 anni. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia assai meglio di lanciare a secondi, a minuti, a istanti la viabilità. Poi c'è Luigi da Firenze e le altre ascoltatrici e ascoltatori all'800240024. Arriva un'agenzia secondo la quale il macchinista del treno deragliato in Spagna con tutti quei morti potrebbe essere stato distratto perché parlava al telefono cellulare. E cominciamo a correre verso la fine di questa ultima puntata, almeno per questa stagione, non ci sono più le mezze stagioni. Luigi da Firenze all'800240024. Luigi, grazie della pazienza, è stato molto aspettare. Anzi, ci mancherebbe. Grazie, lei, molto gentile. Al signor Rizzo, che stimo tantissimo. Caspita. Allora, volevo fare una premessa e poi parlare del Papa. Sì. La premessa è questa: io vengo da Firenze, dove c'è il nostro sindaco Matteo Renzi, e vorrei dire al signor Rizzo di stare attento a settembre, perché qui ci sono i mondiali di ciclismo e lì secondo me il signor Renzi farà veramente i botti d'artificio. Cioè anche lui in bicicletta, anche lui in bicicletta che fa la gara. Ma secondo me a livello politico farà, siccome è una manifestazione mondiale, il signor Renzi è sempre propenso anche verso l'America eccetera, lì occhio signor Rizzo che ci saranno i fuochi d'artificio contro o il PD eccetera. Comunque state attenti giornalisti. Sul Papa invece volevo dire, io non sono ateo, però sì, Luigi è stato fulminato appena detto, sono stato fulminato, vediamo se riusciamo a recuperare il povero Luigi. Però Sergio Rizzo, allora ti diceva stai attento, cioè, ma questa lotta tra Letta e Renzi, no, per la premiership, diciamo è paradossalmente una lotta interna alla DC più che al PD? Ma c'è una lotta? Io non vedo ancora una lotta. Incruenta al momento, per carità. Però, insomma, no, ma mi pare che siamo ancora. Allora, intanto Letta, diciamo, ha avuto un'occasione importante. Non credo che lui avrebbe mai avuto questa opportunità se non fosse successo quello che è successo, no? Questo penso che ne sia consapevole anche lo stesso Enrico Letta. È chiaro, ma perché tutti quanti dentro il PD nel loro cuoricino lo sanno, e forse diciamo la maggioranza lo spera, che anche quelli che hanno sostenuto Bersani, attenzione, che il futuro premier possa essere Matteo Renzi, no? Questo mi pare che sia ormai. Si tratta semplicemente in questa fase di trovare il modo di far completare a Letta il suo mandato. No? Ma al tempo stesso di garantire la continuità dentro il PD al vecchio gruppo dirigente, secondo me. Però al tempo stesso di preparare la strada per Renzi, questo mi pare di capire il gioco, il disegno a cui Epifani stesso no, sta diciamo lavorando, perché altrimenti non si capiscono certe sue dichiarazioni, no? Beh, insomma, effettivamente nel PD diciamo adesso tantissima chiarezza non c'è, ma forse diciamo è in preparazione propria mia. Per esempio Luigi da Firenze, ti abbiamo riacchiappato, sintetizza per favore in mezzo minuto se puoi, perdonami. Velocissimo. Io sono poco credente fino all'arrivo di questo Papa, ho vissuto ieri l'altro quello che sta succedendo in Brasile, però la frase del Papa che mi ha lasciato veramente stupefatto è: siamo io, mi ci metto anch'io, lei, giornalista Rizzo, a dare una parte di noi stessi a quello che ci sta a fianco. Siamo noi, e questa è la parola che mi ha fatto veramente. Quindi responsabilità, anche questo vuoi dire, Luigi? Anche a livello economico, cioè, siamo in grado di non fare i menefreghisti e aiutare il nostro prossimo? Secondo me, finché praticamente c'è questa situazione, no. Però il Papa fa sì che è il Papa dei poveri, è veramente il Papa dei poveri. Grazie, Luigi. Questo devo dire che molti dicono, quando c'è questo Papa, sono un po', non dico riconvertiti, più avvicinati. Luigi diceva: io ci credo poco, però ci credo un po' di più adesso. Ma ora, a proposito di religione, giorni, cioè un po' anticonformista, il nostro appuntamento con Don Severino da Potenza. Caro Don Severino, a te. Ciao Roberta, prima di tutto vi saluto, vi ringrazio di avermi avuto qui con voi in questa ultima puntata. Grazie a te. E faccio un appello semplicissimo a tutti i cattolici, credenti, i non credenti, di pregare o di farsi voce affinché venga approvata la legge contro l'omofobia. I politici dicono che questo momento, dato che manca il pane e il lavoro, non è un problema. Ecco, la libertà di vivere i propri sentimenti vale molto di più del pane e del lavoro. Questo è Don Severino. Grazie Don Severino. E invece, a Valeria Della Valle, molto sinteticamente, cara Valeria, linguista della sapienza di Roma, eccoci qui ancora una volta, volevo chiederti, fighetto, visto che ho diciamo così, usato questo appellativo anche con Sergio Rizzo, visto che l'ho usato Letta in questi giorni, fighetto. Pronto Valeria? Pronto, ecco, sì. Beh, ho sentito male, quindi sì. Mi manca la parola. Fighetto, la parola fighetto. Ecco, no, sì, fighetto è una parola entrata nel lessico comune recentemente, quindi gergale, non so a fare l'etimologia perché sarebbe troppo lunga, anche dovremmo risalire una parola oscena, che forse non è il caso. Vabbè, di si comprende inserire facilmente in questa occasione. Sì. Comunque, quello che vorrei notare, intanto è questa abuso di diminutivi, no? Ci sono i figlietti, ci sono i fumetti, e forse si potrebbe anche stabilire un'analogia tra le due parole, e fighetto naturalmente, ecco, che venga usata come parola anche nel linguaggio politico è un fatto nuovo. E direi che fa parte anche questo di una popolarizzazione del linguaggio politico, su si può essere più o meno d'accordo, ma questo, in questo caso mi sembra che il livello scenda ulteriormente. Ecco, grazie Valeria Della Valle, bene, arrivederci. Ciao Valeria, buone vacanze. E ti chiedo, Sergio Rizzo, mentre abbiamo questi 48 secondi, napoletano, no? Per tanti un faro, per altri insomma Re Giorgio, è forse ha sostituito l'uomo del monte, quello ti ricordi di quei succhi di frutta famosi, è diventato l'uomo del colle, lui quello che dice sì o no, è lui che decide? Abbiamo proprio 20 secondi. Ma io mi auguravo un altro esito, sinceramente. Io pensavo che anche per lui sarebbe stato molto meglio andare a Capri a passare delle ottime vacanze dopo il gran lavoro che ha fatto. Purtroppo il paese era ridotto talmente male che non sono riusciti neanche a fare un presidente della Repubblica. A mandare in pensione giustamente la Politica, c'è anche la sua età. Diciamo, invece... però rimborsa l'Inps, rimborsa sollecitamente le pensioni d'oro. Questo è pazzesco. Fatto bene a notarlo. Sergio caro, io ti devo salutare, ti ringrazio, saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, sperando, chissà, ci ritroveremo o non ci ritroveremo qui nella prossima stagione. In ogni caso, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.